Inferno Flower, business is business, no matter what Inferno Flower. Everybody can have a cash for the very beginning to the top. People to the top, business is business. In questo locale bariste, come nella villa Playboy. Qui si fanno affari 20 zeri, tutti Playboy. Business is business, no? In questo locale bariste come nella villa di Playboy. Qui si fanno affari 20 zeri, tutti Playboy, yeah. Have you ever seen a sunflower? Business is business, parcheggiate fuori, macchine in fila, gnacchi e notti Monte Carlo, mia diva, mia dea. Nella selva cantano suoni di occulto. Business is business, parcheggiate fuori, macchine in fila, neanche notti Monte Carlo, mia diva. Mia dea. Nella selva cantano suoni d'occulto, riva su riva, hot and fresh, corpi su spiriti di luce, soffusa caldi. Corpo, nella selva, una dolce pietra preziosa, riva sul tuo orecchio si sveglia, la mattina corpi, a raccontarti una storia preziosa, di luce, caldi soffusi, il tuo corpo, che il corpo riva su riva, corpo, siamo stati mandati corpi sospiri si svegliati soffusa calda, la flor del sole, il miracolo del sole, i cori di mani e di sole, il tuo sole. Business is business, vestiti firmati i tuoi, devi toglierli prima che arrivino i tuoi, prima che arrivino i tuoi e ci fermino. Business is business, vestiti firmati i tuoi, devi toglierli, dolce Giulietta, prima che arrivino i tuoi, prima che ci fermino. Business is business, logiche d'amore le tue, sguardi sui miei soldi, meglio toccarsi, oppure zero sentimenti carnali, zero fiore infernale. Business is business, mi sveglio tra letti di profumi tuoi e qui sui miei soldi. Tu giostra d'amante, meglio scendere e scappare. Il letto inizia a urlare, pietra preziosa. Letto inizia a urlare, a urlare, a urlare. Assenza del tuo fiore ci svegliamo. La mia anima di luce su te, la tua anima di felice su me. Risorgiamo insieme. Business, or not business, per me vali più dell'oro nero tutto, il mio cielo per te per una notte sola tra noi. Business or not business, per me vali più dell'oro nero tutto, il mio cielo per una notte sola tra noi. Business is business, ci sono occhi di echi di proibito di altri, i tuoi, siamo amanti speciali noi, proibiti come i fiori di Baudelaire. Are you understand, bitch? Business is business, ci sono occhi di echi di proibito di altri, i tuoi, siamo amanti speciali noi, proibiti come i fiori di Baudelaire. Che scrivo tra l'imbarazzo tremo, un fiore blu sul tuo seno, tra la stella sul mio viso scrivono i corpi, il filo di seta di lama, paradiso tra noi.